GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltempo, convocato nel pomeriggio il comitato per le emergenze. Tra domani e venerdì è previsto un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione, con piogge abbondanti e venti forti. Ed ancora allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrodinamico in conseguenza del transito della piena dei fiumi Meduna e Noncello a Valle di Pordenone. Il picco è passato nella notte senza creare problemi. Regione, in Porto Vecchio parte la progettazione di fattibilità. Fra 4 mesi via la gara per i lavori per il restauro degli edifici che ospiteranno circa 1200 dipendenti in circa 30.000 metri quadrati. Domani un vertice per la sicurezza in prefettura a Trieste. Alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi si parlerà della situazione attuale dei controlli al confine con la Slovenia e dei tempi previsti per la proroga del provvedimento. In occasione della solennità di Tutti i Santi, oggi i vescovi delle diocesi celebrano le sante messe in diverse chiese della regione, ricordati anche i caduti nelle guerre presso il sacrario di Gonar. Cerimonia alla presenza di autorità delle repubbliche di Slovenia e Croazia. Non ci sarà capitano Roberto Pereira nell'Udinese, che questa sera ospiterà alle 21 allo stadio Friuli Cagliari per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Nel basket oggi turno infrasettimanale di campionato in Serie A2 con Trieste e Cividale impegnate in trasferta. Ultimo giorno di proiezioni al Miele Rossetti per il Trieste Science Plus Fiction Festival, la manifestazione tra scienza e fantascienza che si concluderà con la tradizionale cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti. Le 12:31 minuti e 40 secondi, buongiorno da Giorgio Beaz e Dario Ronzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 1° novembre, festività di Ogni Santi. Ma il tempo dunque ancora in primo piano in regione, anche se la scorsa notte non ci sono state particolari criticità e oggi la situazione è in miglioramento. Dal pomeriggio di domani sono previste precipitazioni da abbondanti a intense su pianura e costa, intense o molto intense sui monti e con vento da sostenuto a forte da sud sulla costa e in cuore. E proprio considerato il peggioramento meteorologico in arrivo, nel pomeriggio di oggi alle 16 è stato convocato il Comitato regionale per le emergenze da maltempo, a cui parteciperanno il governatore Fedriga e l'assessore con delega alla Protezione Civile, Riccardi. Sopralluoghi della Protezione Civile e pulizia di un territorio già provato da 10 allerte meteo in 2 settimane, in vista di nuove piogge, venti e mareggiate. Alle ore 16 intanto è stato convocato urgentemente il COREM, Comitato Regionale per le Emergenze. Vi prenderanno parte in videoconferenza il Presidente Fedriga, l'Assessore Riccardi, Forze dell'Ordine, Direzioni Regionali, Telecomunicazioni, SORES e diversi enti. Si riunisce in situazioni eccezionali, l'ultima volta in agosto, dopo le grandinate. Questa volta si terrà in previsione dell'evento meteo per capire come organizzarsi in caso di grave emergenza. Gli eventi di questi giorni dovrebbero farci riflettere sulla necessità di rallentare l'afflusso di acqua, ritardando l'ingrossamento dei fiumi. Ne è convinto Fulvio Iadarola, geologo ed ex presidente dell'Ordine regionale, che incontriamo sulle rive dell'Isonzo, quasi in piena. Raccoglie le acque degli affluenti minori, certamente, ma anche quelle urbane. Sarebbe importante, indica Iadarola, investire su opere di drenaggio delle acque, parcheggi con pavimentazione drenante, vasche di raccolta casa per casa per una dispersione più progressiva, zone di laminazione nelle stesse città, fognature, e su questo si sta già intervenendo, non più miste ma che separino acque nere e meteoriche. Se noi riusciamo a intervenire nei centri urbani, ad esempio, con opere di piccole dimensioni ma molto diffuse, anche a livello di singola abitazione, forse riusciamo a dare un grosso contributo a questa quantità d'acqua che normalmente si riversa appunto in questi collettori che poi arrivano al mare e sempre meno ne arrivano in falda. Anche perché, ricorda Iadarola, nonostante la vista dell'Isonzo sia impressionante, le falde sono ancora basse e ogni anno i valori medi di pioggia sono in diminuzione. Cercare di infiltrare quante più acque possibile nel sottosuolo sarà sempre più determinante. Gradisca di Isonzo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed ancora allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrodinamico in conseguenza del transito della piena dei fiumi Meduna e Noncello a Valle di Pordenone. Il picco è passato nella notte senza creare problemi. È passata meglio del temuto la piena del Noncello a Pordenone, anche se si attendono nuove piogge copiose a partire già da domani. L'acqua è rimasta un paio di metri sotto il livello in cui le prime parti della città iniziano ad allagarsi. Ieri nel pomeriggio il Comune aveva attivato il sistema di preallerta con le telefonate ai cittadini registrati al servizio per avvisare chi abita in aree alluvionabili. Chiusi i parcheggi più esposti, la rapida salita del fiume preoccupava, poi il rallentamento e il picco nella notte. Sul ponte di Damedeva in molti vengono a far foto. Era preventivato che aumentasse di volume, speriamo che nei prossimi giorni non aumenti ancora. Ogni tanto fa paura, ma comunque vedo che il livello sta diminuendo. Io purtroppo l'alluvione l'ho provata, dove abitavo a Valle Nocello e mi è arrivato in casa, ma parliamo degli anni 60. La guardia resta alta, l'acqua defluisce lentamente, una nuova piena è attesa per venerdì e si osserva anche il Meduna. Domani riunioni operative in comune anche sulla base delle indicazioni che arriveranno oggi dalla Protezione Civile Regionale. Sono già pronte comunque le paratie da installare ai lati degli argini che proteggono Borgo Meduna, realizzati dopo l'ultima grande alluvione, quella del 2023. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E diamo allora uno sguardo alla situazione meteo attuale. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 18 gradi, a Gorizia 16 gradi e mezzo, a Pordenone 16, a Udine 15 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 9 gradi, a Piancavallo 7 gradi e mezzo, a Tarvisio 5 gradi e mezzo, a Sappada 5 gradi. Sul Monte Lussari 5 gradi, 4 gradi sul Monte Zoncolan, passando alla costa a Grado 17 gradi e 5 decimi, a Lignano 16 gradi. Diamo uno sguardo alle previsioni. Dal pomeriggio sera fino a venerdì mattina, estensione della pioggia su tutte le zone che diventeranno anche temporalesche, da abbondanti ad intense su pianure costa, intense o molto intense sulla zona montana. In serata soffierà vento da sostenuto a forte da sud-sud-est sia sulla costa che in quota. E cambiamo argomento. Le attività finanziarie in regione ammontano al 50,7% della ricchezza lorda, un dato molto più alto della media italiana che si attesta al 45,8%. La ricchezza del Friuli Venezia Giulia tocca invece quota 215 miliardi di euro. Lo indica il report annuale della Banca d'Italia diffuso in occasione della giornata mondiale del risparmio. La dinamica della ricchezza netta in regione è stata sospinta dal forte incremento del valore delle attività finanziarie, riconducibile principalmente al risparmio gestito, bilanciando così il calo delle obbligazioni, voce questa che nel 2021 era decisamente scelta dalle famiglie. Volendo fare una stima pro capite, ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia ha una ricchezza di 179.000 euro, in linea con la media nazionale. Una situazione che risente comunque dell'aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi delle tariffe in generale e della incertezza dei mercati finanziari a causa delle instabili situazioni geopolitiche mondiali. Domani è in programma a Trieste un vertice per la sicurezza in prefettura alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi, delle autorità e delle forze dell'ordine. Si parlerà della situazione attuale, dei controlli al confine con la Slovenia e dei tempi previsti per la proroga del provvedimento che è stato deciso, lo ricordiamo, per motivi di sicurezza e per il rischio di infiltrazioni di terroristi attraverso la rotta balcanica. Conclusi i prorogati e ora in attesa di quello che si deciderà nel vertice fra i ministri dell'interno convocato per domani a Trieste. Continuano dunque i controlli ai valichi di confine che tuttavia nel giorno di ogni santi, in cui l'andirivieni dei lavoratori transfrontalieri è sospeso, ha creato al massimo qualche rallentamento ai valichi principali di Fernetti, Rabuiese e Basovizza. Questione di pochi minuti, quelli necessari per permettere agli agenti di polizia che lavorano con il supporto dei militari di effettuare alcuni controlli a campione. Qualche disagio in più si era registrato appunto nei giorni feriali, quando tanti automobilisti abituati a varcare quotidianamente i confini avevano dovuto fare i conti con un allungamento dei tempi. Il primo ripristino dei controlli, scattato il 21 ottobre scorso, aveva una durata iniziale fissata in 10 giorni e riguardava sia i valichi principali, sui quali è prevista una vigilanza H24, sia quelli secondari, controllati in modo più saltuario. Ora si attendono gli esiti del vertice di domani. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenzierà prima il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Pietro Signoriello, e poi incontrerà i suoi omologhi di Slovenia e Croazia. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: il portiere della squadra di calcio Pro Cervignano, un ragazzo di 17 anni, è rimasto ferito a causa di uno scontro di gioco avvenuto in area di rigore nel corso di una partita di allenamento ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È accaduto ieri sera sul campo di Cervignano, dove era in corso l'allenamento in vista del match contro l'UFM Monfalcone. Il ragazzo, dopo uno scontro in una fase di gioco, è rimasto a terra e ha perso conoscenza. È stato subito soccorso dai compagni, dal tecnico Nico e dallo staff sanitario della squadra che ha allertato subito il 118. Sul campo è così atterrato un elicottero la cui equipe sanitaria ha stabilizzato il portiere sul posto, lo ha poi trasferito in volo all'ospedale. Dopo quella di ieri in via Milano tra tre egiziani e un afghano, con quest'ultimo finito in ospedale con la testa rotta, un'altra rissa, l'ennesima di questi giorni a Trieste e sempre con protagonisti cittadini stranieri, è scoppiata verso le 23 di ieri nella zona di via San Lazzaro tra due uomini, uno di nazionalità georgiana e l'altro marocchina. Nel corso della colluttazione, esplosa per motivi ignoti, entrambi sono rimasti feriti. La coppia è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 intervenuta insieme alla polizia locale, che li ha trasportati all'ospedale di Cattinara. Uno dei due avrebbe riportato una lesione alla gamba. Non sarebbero in gravi condizioni. Proseguono a Udine, nell'area intorno a via Iudrio, le ricerche di una persona dispersa da ore. Si tratta di un uomo di 48 anni, impegnati i vigili del fuoco. In occasione della solennità di Tutti i Santi, oggi i vescovi delle diocesi celebrano le messe in diverse chiese della regione. A Trieste, nella cattedrale di San Giusto, il vescovo Monsignor Enrico Trevisi ha presieduto stamane la concelebrazione eucaristica, così come l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, in cattedrale, mentre alle 15 lo stesso presiderà i vespri solenni nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Vito, nel cimitero monumentale. A Pordenone, il vescovo Giuseppe Pellegrini ha presieduto i pontificali alle 9:30 e alle 11:30, con un particolare ricordo dei defunti della società operaia. Alle 18 ci sarà una messa anche alla Chiesa del Cristo. A Gorizia il vescovo Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli ha celebrato stamane la messa in onore di Tutti i Santi, mentre alle 15 sarà al cimitero di Gorizia per la liturgia di commemorazione dei fedeli defunti. E oggi vengono ricordati anche i caduti nelle guerre presso il Sacrario di Gonarse, cerimonia alla presenza di autorità delle Repubbliche di Slovenia e Croazia, con la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento sul luogo dove un tempo sorgeva il campo di concentramento. Con le note dell'Inno alla Gioia, simbolo non solo dell'Unione Europea ma anche dell'Europa Unita, e la deposizione delle corone nell'area in cui sorgeva il campo di concentramento per internati civili sloveni e croati, a Gonars si è conclusa la celebrazione per ricordare i caduti. In precedenza al Sacrario Monumentale c'è stata la cerimonia di commemorazione con deposizione di altre corone delle 471 persone morte tra il 1942 e il 1943 nel campo per internati. Una cerimonia ancora più sentita vista i venti di guerra alle porte con l'Europa e nella striscia di Gaza. Antonella Lestani, ANPI Udine. Non dimenticare i crimini del fascismo e del nazismo, proprio perché queste cose non accadano mai più, e mai più in questo momento è difficile dirlo, soprattutto con i conflitti che abbiamo. Il sindaco di Gonars, Ivan Boemo. Queste commemorazioni devono servire alle future generazioni, purché non ci siano più gli errori tragici fatti nel passato. Però, ahimè, vedo che non ha servito a niente studiare la storia, capire la storia, perché quello che sta succedendo sia in Ucraina che in Gaza sono delle cose veramente incredibili, allucinanti, vergognose da condannare. Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. È una triste, tremenda pagina di storia che deve sempre essere ricordata per onorare le vittime innocenti e soprattutto come testimonianza degli errori del passato. Il campo costruito nel 1941 per prigionieri di guerra russi non fu mai utilizzato per quello scopo. Nel 1942 fu invece destinato all'internamento dei civili sloveni e croati, come tutti gli altri campi italiani per prigionieri jugoslavi. Quello di Gonars funzionò fino a settembre 1943, quando il contingente di guardia fuggì e gli internati poterono andarsene. Nel 1973, per iniziativa delle autorità jugoslave, è stato realizzato il sacrario nel cimitero di Gonars. Gonars, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la 38ª volta la sezione ANA di Trieste organizza la fiaccolata staffetta alpina della Fraternità. Le cerimonie si terranno alle 15 al cimitero degli eroi ad Aquileia e a seguire al cimitero di guerra austro-ungarico di Prosecco, alla risiera di San Sabba, al monumento ai caduti a San Giusto e alla foiba di Basovizza. Regione in Porto Vecchio, via la progettazione, firmato il contratto. Sarà Atelier a stilare il piano, il trasloco di circa 1200 dipendenti. Un passaggio chiave per il riutilizzo di una serie di edifici del Porto Vecchio di Trieste che ospiteranno i nuovi uffici della Regione. È la firma del contratto che affida l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ad un raggruppamento di imprese guidato da Atelier Alfonso Femia, uno studio di architettura che ha le sue basi italiane a Milano e a Genova. Il raggruppamento di imprese ha vinto la gara d'appalto con un'offerta pari a 6.700.000 euro, con un ribasso al 27%. Ora architetti e ingegneri hanno 4 mesi per completare i progetti, poi si passerà alla gara di appalto per la realizzazione, che costerà 104 milioni e 3 anni di lavoro. Oggetto dell'intervento il restauro e il risanamento conservativo dell'edificio 118, dei magazzini 7 e 10 e dell'hangar 21 del Porto Vecchio, che ospiteranno il lavoro di quasi 1200 dipendenti regionali su poco meno di 30.000 metri quadri di superficie. Del raggruppamento di imprese fanno parte 4 realtà milanesi, la genovese Maelle Restauri, l'architetto triestino Giovanni Damiani e lo studio geologico Graziano e Masi di Palermo. Per il progetto verrà utilizzata la metodologia BIM, acronimo di Building Information Modeling, un sistema che punta sulla progettazione simultanea e integrata di tutte le componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche degli edifici, con l'obiettivo di migliorare la collaborazione tra le figure professionali coinvolte dagli architetti agli operai, riducendo la percentuale di errori e il numero di modifiche in corso d'opera. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, la vetrina dell'Ingegno, polo espositivo, formativo e didattico di Confindustria Udine, ospitato nella Torre di Santa Maria, è stato ammesso alla Rete Nazionale di Musei Impresa, associazione che riunisce oltre 130 musei e archivi delle imprese italiane. La missione è quella di aggregare nuovi soggetti della cultura d'impresa, incidere sui processi di formazione, salvaguardare la memoria dell'industria italiana e valorizzare le testimonianze di una straordinaria capacità manifatturiera che è motore di sviluppo sostenibile e cardine di una diffusa cultura economica, sociale e civile. La vetrina è un progetto espositivo a rotazione e si articola nei vari settori merceologici in cui sono organizzate le imprese associate a Confindustria. I primi settori oggetto di ricerca sono stati edilizia e materiali da costruzione, illustrati nella mostra attualmente in corso. Seguirà nel 2024 il settore del legno e arredo. Il riconoscimento di Musei Impresa giunge a brevissima distanza dal premio di architettura INARC, attribuito al progetto di riqualificazione della Torre di Santa Maria, firmato dall'architetto Alessandro Verona. E siamo allo sport con il calcio. Non ci sarà capitano Roberto Pereira nell'Udinese, che questa sera ospiterà alle 21 allo Stadio Friuli il Cagliari per i 16 di finale di Coppa Italia. Al termine della rifinitura di ieri, l'allenatore Cioffi ha infatti convocato 22 giocatori, mancherà nel reparto offensivo anche Success, entrambi risparmiati in vista della trasferta di campionato con il Milan. In attacco potrebbe esserci spazio per il baby Pafundi. La Coppa Italia come medicina per provare nuove soluzioni e permettere a Cioffi di testare chi conosce meno. L'Udinese affronta al Friuli alle 21 il Cagliari, reduce da un'incredibile rimonta in campionato contro il Frosinone e una delle due formazioni che in campionato hanno finora fatto peggio dei bianconeri. Tutto nuovo quasi, l'11 scelto dal mister subentrato a Sottil. In porta esordirà il nigeriano tedesco Okoye, davanti a lui probabilmente una difesa inedita. Torna Masina, presumibilmente al centro, con ai suoi lati i debuttanti Gessan e Tic. A centrocampo conferma per Lovric, chance per Zarraga dopo l'esordio incubo contro la Juve, e in mezzo con loro o il portoghese China o il ventenne francese Etienne Camara, mentre sulle corsie laterali a sinistra cerca riscatto l'altro Camara con la K, autore di buone prestazioni a settembre ma poi in difficoltà. A destra invece l'imbarazzo della scelta tra Ferreira, Aké e De Bozel, scelta che invece manca davanti. Cioffi è intenzionato a dar continuità a Lucca, autore del gol del pari contro il Monza domenica, mentre sembra difficile che l'enfant du pays Pafundi possa scalzare Toven. In panchina l'azzurrino non sarà però il più giovane, con il pari ruolo sedicenne Pejcic pronto anche lui a subentrare. Mettersi in mostra e trovare nuovi giocatori da inserire in campionato sembra la priorità, quindi, anche se lo stesso Cagliari userà la strategia analoga. Chi passerà il turno affronterà agli ottavi il Milan a San Siro. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket, oggi turno infrasettimanale di campionato di Serie A2 con due squadre regionali impegnate in trasferta. La Gesteco Cividale, reduce da 3 sconfitte di fila, giocherà contro l'Unieuro Forlì alle 18 senza l'infortunato Furin. La Pallacanestro Trieste, che a sua volta ha perso le ultime 3 partite, sarà ospite di Piacenza alle 20:30. Mancherà Reyes, partito per Porto Rico, probabile banco di prova decisivo per il coach Christian. L'APU Old Wide West Udine rimane alla finestra a causa del rinvio al 15 novembre del match contro la Fortitudo Bologna. Pallanuoto, nella 6ª giornata del campionato di Serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo della SIS Roma. Si gioca nel polo acquatico Frecciarossa di Ostia con inizio fissato alle 19. Le triestine si ritrovano al secondo posto proprio in compagnia delle giallorosse e del plebiscito Padova. Per le ragazze alla Bardate si tratta quindi di uno scontro diretto da affrontare con la giusta carica di coraggio e concentrazione. Volley, turno infrasettimanale della 2 maschile, la Tinet Prata affronta in trasferta la Libertas Cantù, inizio alle 18. L'intelligenza artificiale al servizio della scienza, in particolare nella ricerca farmaceutica, era il tema conclusivo degli appuntamenti Mondo Futuro nell'ambito di Science Plus Fiction. Tra i protagonisti Silvia Onesti, direttrice del laboratorio di biologia strutturale di Elettra Sincrotone, ospite oggi della rubrica Buongiorno Regione. Il laboratorio di biologia strutturale dell'Elettra Sincrotrone focalizza i suoi studi sulla forma delle proteine, che hanno una funzione chiave nella formazione delle molecole. Molecole che possono diventare anche dei farmaci. La potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale e delle learning machines è uno strumento utilissimo nelle mani della ricerca. Può, nel caso della biologia strutturale, accelerare il processo di sviluppo di nuove terapie. L'intelligenza artificiale riesce a predire la struttura delle proteine con un'accuratezza che è molto maggiore di quella che avevano gli algoritmi che avevamo a disposizione prima. Questo non toglie che c'è sempre un aspetto di ricerca sperimentale con cui noi dobbiamo validare alcune delle predizioni fatte da questi algoritmi, ma una parte almeno del nostro lavoro viene semplificata. Individuare nuovi farmaci è un processo molto lungo, molto costoso, che fa sostanzialmente l'industria farmaceutica, provando decine, milioni di diversi composti su una proteina target. Come noi possiamo contribuire a fornire strutture accurate di queste proteine target e studiare magari come alcuni di questi composti si legano. Accelerare il processo di ricerca di nuovi farmaci significa ridurre i costi con potenziali benefici sociali. La ricerca che sta dietro i farmaci richiede costi molto elevati. Abbassare i costi significa che abbiamo la possibilità di affrontare anche malattie del terzo mondo e anche malattie rare. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sempre parlando del Trieste Science Plus Fiction Festival, oggi l'ultimo giorno di proiezioni al Miela e a Rossetti. La manifestazione tra scienza e fantascienza si concluderà alle 20 con la tradizionale cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti. Un'edizione che ha avuto un seguito speciale da parte di un pubblico molto numeroso, così almeno ci racconta Francesco Ruzier del Science Plus Fiction Festival. È stata veramente un'edizione di grandissimo successo, siamo davvero molto contenti. Per noi era un'edizione speciale perché festeggiavamo i 60 anni dalla prima edizione dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza, quindi abbiamo voluto insomma rendere omaggio sia un po' alla storicità del festival ma anche alla città di Trieste. Infatti quest'anno, oltre alle proiezioni in sala che restano comunque sempre il motore trainante dell'evento, abbiamo organizzato tantissimi eventi collaterali sparsi proprio per tutta la città, e credo che se dobbiamo misurare il successo del festival possiamo farlo proprio partendo da questi eventi, perché sono stati davvero un successo incredibile. Tutti gli eventi erano sold out, abbiamo visto un incremento di presenza rispetto al passato. Questa sera la cerimonia di premiazione al Rossetti alle 20 con tanti ospiti e registi. A seguire ci sarà la proiezione di un film che a noi è piaciuto moltissimo, si tratta di The Beast di Bertrand Bonelloc, che era in concorso quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono passati 60 anni da quel primo festival della fantascienza a Trieste, la fantascienza non tramonta, piace, continua a incuriosire, coinvolgere e fa riflettere. Un genere che non tramonterà mai, perché è uno di quelli che appunto ci aiuta meglio a capire la nostra quotidianità e a pensare anche al mondo di domani. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Il primo novembre è la giornata in cui si celebrano tutti i santi. I loro nomi, assieme a quelli degli apostoli, ispiravano i genitori nella scelta dei nomi con i quali battezzare i nascituri. La cultura pop ha poi allargato il ventaglio delle scelte, ma molti genitori sono attratti anche dal genio di Leonardo. Di Ermacora e Fortunato non se ne sentono più da moltissimi anni e dire che sono i primi martiri dell'antico patriarcato di Aquileia, nonché i santi patroni della regione Friuli Venezia Giulia e della città di Udine, si festeggiano il 12 luglio, ma anche oggi, nella giornata degli ogni santi. Al posto loro, alle anagrafi dei comuni, i nomi dei nuovi nati hanno sempre meno a che fare con i santi e sempre di più con le serie TV più in voga. Da qualche anno fanno tendenza i nomi americani, non è così infrequente sentire a scuola Kevin, Chantal, Michael, Kelly e Sheila, anche se poi a reggere i primissimi posti delle classifiche restano comunque i nomi più tradizionali, per i maschi Leonardo, Matteo, Luca, Mattia, Alessandro, per le femmine Sofia, Sara, Emma e Aurora. A parlare di vera e propria moda onomastica è Enzo Caffarelli, uno dei principali studiosi in Italia per lo sviluppo della disciplina onomastica antropologica e toponomastica, e fa l'esempio del nome Emma, il nome delle nostre nonne tornato di moda qualche anno fa. Tra poco queste bambine saranno mamme e sceglieranno altri nomi per i propri figli, e poi, diventate nonne, il loro nome sarà considerato desueto, antico, per poi rispuntar fuori tra qualche decennio, e così via. Caffarelli già 10 anni fa diceva che Mario Rossi, l'uomo italiano qualunque, stava ormai andando in soffitta. Ma a proposito di Rossi, forse può stupire, ma è ancora il cognome più diffuso a Udine. Questo secondo i dati dell'annuario statistico del comune di Udine, ultimo report disponibile 2019, quando 287 erano i residenti in questa città con questo cognome. Per quanto riguarda i nomi più scelti nel 2019 a Udine, Leonardo e Tommaso in testa tra i maschi, Giorgia, Sofia e Giada tra le femminucce. Dall'ufficio anagrafe di Trieste dati freschissimi: su 900 estratti di nascita, 19 bambini si chiamano Leonardo, 15 Sofia, 11 Emma. Poi ci sono molte Camilla, al quinto posto Liam, con 10 bambini solo quest'anno. Giulia, per tradizione, molto scelto in quest'area del territorio, visto che richiama anche il nome della regione, non è più al primo posto come succedeva fino a qualche anno fa. 7 le bimbe che quest'anno sono state chiamate Giulia, tanto quanto le, un tempo meno comuni, Ginevra e Adele. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E con questo servizio chiudiamo il nostro appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Federico Coma. Ha collaborato in redazione Samantha Gong. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie per la cortese attenzione, a tutti un buon proseguimento del primo novembre. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.